Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, vedremo anche di chiarire che cosa, col massimo rispetto, è chiaro che quando gestisci un'emergenza è facile poi avere il senno di poi, però che qualcosa non abbia e non stia funzionando, non abbia funzionato nella comunicazione, a partire da quella del governo e poi anche delle regioni, creando un eccesso di allarmismo, lo stanno dichiarando un po' tutti. Vi dico, finalmente Ricciardi collabora con il ministro Speranza, vi dico un dato che ha appena diffuso Ricciardi. In Italia, e mi riferisco appunto al consulente del Ministero della Salute, nonché membro italiano dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Walter Ricciardi, in Italia, lo ha dichiarato pochi minuti fa, sono stati eseguiti oltre 10.000 test per la rilevazione del coronavirus, contro i meno di 1.000 in Germania e Francia. Allora, questo cosa vuol dire? Adesso non faremo lo speciale, ma faremo ascoltare la conferenza stampa al punto alle 18 di Borrelli, quindi la protezione civile. Dovrebbe essere annunciato dalle anticipazioni il fatto che anche da noi i tamponi verranno fatti a pazienti sintomatici, cioè che hanno dei sintomi, non a campione, quindi non anche sui pazienti asintomatici, come avviene negli altri paesi, perché è chiaro anche a livello statistico che se tu fai 10.000 test becchi anche pazienti asintomatici col coronavirus, mentre gli altri paesi non li hanno beccati. E uno mi può dire, beh, meglio noi che gli altri. Ho capito, però vediamo di uniformarci, se no l'Italia esce fuori con centinaia di casi e diventa il monatto, l'appestato d'Europa. Tra l'altro qui c'è un tema anche di comunicazione, perché io capisco l'emergenza e tutto quanto, però forse si è un po' esagerato con le comparsate televisive, poi lo diremo, e anche con immagini televisive che davano un senso di, mio Dio, di un attacco nucleare, la sede della protezione civile, il premier Conte, mi dispiace, ma non so se sia colpa di Conte o di Casalino, come dicono adesso molti articoli, non me ne frega sostanzialmente nulla del ruolo di Casalino in questo momento. Rocco Casalino, il portavoce del Presidente del Consiglio, da molti additato come quello che ha enfatizzato, ma nessuno dice che tu non dovessi parlarne, però 16, sono stati contati 16 interventi televisivi a domenica, da Fazio alla D'Urso, nel bunker della protezione civile, dando una sensazione di un paese che stava gestendo un'emergenza di carattere nucleare. E poi, per carità, anche alcuni colleghi, non lo metto in dubbio, non prevengo la critica, alcuni colleghi giornalisti che l'hanno cavalcata con tutta l'enfasi possibile. Anche oggi ho sentito da parte di altri mezzi di informazione dire è arrivato il primo morto in Emilia Romagna, senza specificare, e questo mi sembra palesemente scorretto, che l'anziano deceduto in Emilia Romagna era affetto da gravi patologie, quindi è morto ma è risultato positivo al coronavirus. Non c'è nessuna evidenza empirica che sia morto per il coronavirus. Vogliamo iniziare a dire le cose come stanno, o se no ogni paziente che muore perché è in dialisi, con la massima cordoglio e vicinanza ai familiari, ci mancherebbe, diciamo che è morto per coronavirus, stiamo facendo disinformazione, non informazione. Quello che è certo è il danno economico che abbiamo creato al paese e che secondo me non si riuscirà a risollevare e a risolvere in breve tempo, soprattutto per quello che riguarda il turismo, da dove le prenotazioni vengono fatte anche a mesi in anticipo, e l'immagine di un'Italia in cui sostanzialmente almeno la Lombardia è paralizzata. Poi ci sono le teste, non voglio definirle come, per non voglio altre querele, di alcuni presidenti delle regioni. Allora, al di là del fatto che oggettivamente il coordinamento andava fatto subito a livello nazionale, non perché ce l'abbia con qualche regione, ma le regioni si stanno muovendo in ordine sparso. Il presidente della regione Marche, che per coincidenza è anche in campagna elettorale, ha confermato che tiene le scuole chiuse anche se non ci sono casi. Il sindaco di Napoli, De Magistris, scuole chiuse fino a sabato, perché bisogna sanificare Napoli, così in un giorno solo, lo decidiamo adesso, in 3 giorni sanifichiamo Napoli. Scuole chiuse a Palermo, il Parlamento siciliano, ma qui sembra di essere la classifica del venerdì, che chiude per 4 giorni perché bisogna disinfestare l'intero edificio. Ma che cosa vuol dire? A parte che ci metti 4 giorni a sanificare un edificio, ma che devi fare? E poi cosa fai? Che controlli applichi? Non ci sono casi a Palermo? Voglio dire, ci stiamo. Un conto è la prevenzione, ci mancherebbe, altra cosa è tirarsi la zappa sui piedi, perché in questo modo stiamo creando, con anche grande gioia immagino dei concorrenti italiani, penso a Fronte Turismo, stiamo creando, mi volete raccontare che veramente in Germania con 40.000 residenti in Cina, il paese che ha maggiori rapporti con la Cina, i casi sono solo 30 a questo punto, se vado a rivedere il numero? Ma è ovvio che se fai un decimo dei tamponi italiani beccherai un decimo dei casi italiani. Questo mi sembra abbastanza. Qualcuno dice volevano fare i fighi. Sì, per carità. Io temo che ci sia anche un po' di presenzialismo, perché la telecamera rende tutti un po' strani, anche alcuni virologi che stimavo, frasi, effetto, contraddittorie, una comunicazione unica. I presidenti delle regioni in alcuni casi hanno seguito poi l'ondata per non dimostrarsi da meno, perché conta più la percezione dell'elettorato che il danno che fa all'economia. Il risultato è che adesso poco fa la Farnesina stessa ha detto: ci sono notizie inaccurate e allarmistiche sull'Italia, grazie, ci stanno chiudendo le frontiere, no? E soprattutto, ripeto, sul turismo voi dovete immaginare una famiglia, diciamo, finlandese, tedesca, inglese, che deve decidere a marzo, aprile dove andare in vacanza. No, siccome non è obbligatorio andare in vacanza in Italia, deve decidere se andare in Italia o in Spagna, in Italia o in Grecia, in Italia o in Francia. Che cosa pensate che capiterà se continuiamo a dare un'immagine del genere? Altra cosa è spostare, ho capito che i saloni si spostano perché se ti mancano le adesioni e non ti vengono le persone è giusto spostare il salone, penso al mobile a giugno, all'occhiale a luglio, ma voglio dire, c'è stato palesemente un errore di comunicazione, ma non è semplicemente un errore di comunicazione che tu dici vabbè, allora poco male, no, che sta creando un danno economico, certo, a fronte di, vediamo, un danno, mi dispiace dirlo, con la massima solidarietà verso i 12 defunti, e ripeto, non è che si possa passare sopra, è giusto chiedere agli anziani che stiano molto attenti, visto che il virus sta colpendo quella fascia di popolazione, ma qui stiamo dichiarando, grazie anche agli alcuni esponenti politici nazionali e regionali, stiamo dichiarando che il paese, ma io immagino un turista che vuole andare nelle Marche, grazie al genio del presidente delle Marche, beh, dice, beh, anche le Marche hanno la scuola chiuse, quindi sapete che c'è, io e i miei figli a giugno non li porto nelle Marche, complimenti. Per dimostrare che cosa, Presidente? Che sei anche tu il numero uno, che anche tu chiudi, che a Napoli ci sembra quasi una moda, chiudiamo, chiudiamo, ma che è la nuova moda milanese? Ma venite a vedere come si vive quando, con tutto chiuso, con i ristoranti vuoti, con la città che sembra nel coprifuoco, con disposizioni assurde per cui negli alberghi sono obbligati a chiudere le spa e le palestre, ma allora chiudi l'albergo stesso, perché è un luogo di aggregazione anche l'albergo, chiudi le funivie in montagna, cioè non si capisce una mazza. Oh, va bene, e adesso, solo adesso ci siamo convinti a fare il tampone a chi manifesta sintomi, giusto, ci mancherebbe, a tenere monitorato gli altri e ad avere una cabina di regia in cui sostanzialmente anche l'approvvigionamento, siamo arrivati a dire mancano i tamponi a Codogno, al tutto al netto della gestione dell'ospedale di Codogno, voglio dire, è difficile anche commentare dopo le cose, è chiaro che la cosa è stata sottovalutata, che si è creata una bomba batteriologica lì, ma da lì a trasformare l'immagine di questo paese di un unico grande lazzaretto ci vuole veramente della capacità, e qui mi fermo perché sennò perché veramente è trasformare, e poi chiaramente gli italiani sono messo del loro, la corsa ai supermercati, le immagini che hanno fatto il giro del mondo dei supermercati mezzi vuoti con gente che usciva con l'acqua, non è che voglio dire i governanti siano espressione di un altro stato, sono espressione anche di questo paese, no? In cui c'è la gara al panico, ma poi il tutto, voglio dire, con delle conseguenze, ripeto, che dal punto di vista medico speriamo restino così lievitate, dal punto di vista economico le vittime le abbiamo già fatte. Questo mi fa, sì, anche voi avete una grossa responsabilità. Ho detto che anche alcuni colleghi, l'enfasi che sta messa alcuni colleghi, ed alcuni media non è servita, non ho detto solo, però diciamo che ognuno ha le sue responsabilità. Io non posso mettere sullo stesso piano la D'Urso con Conte, perché Conte è il Presidente del Consiglio, la D'Urso fa un programma, diciamo, ognuno valuta come vuole, ok? Allora, forse anche capire, Rocco Casalino è molto bravo nei media, benissimo, capire che l'immagine del Presidente del Consiglio chiuso nel bunker della Protezione Civile sembrava un attacco nucleare, forse, no? In chi ha grande esperienza di media o perlomeno di format come Grande Fratello, forse doveva capirlo, che non siamo al Grande Fratello qua, non dobbiamo fare share, dobbiamo fare fatturati, porca di una miseria. Comunque, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Adesso andiamo a dare le altre notizie in breve. Certo, uno può sostenere, come fanno ancora alcuni ascoltatori, che sbagliano gli altri, cioè sbagliano Francia e Germania, e abbiamo fatto bene noi. Cioè, devo dire che però noi oggi stiamo dicendo, e fra poco arriverà la conferma ufficiale, che adesso si fanno i tamponi solo chi ha i sintomi. Forse se poteva fare anche prima, non lo so. Comunque, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Sì, lo so che dopo è facile parlare, non sto dicendo che fosse facile decidere lì per lì, lo dico agli ascoltatori. Però anche mantenere i nervi saldi è importante nella vita. Non sto dicendo che non si dovesse far nulla, non sto dicendo che non si dovessero isolare gli 11 comuni, ci mancherebbe, ma è il campionamento a tappeto che mi fa impazzire. Comunque, dai, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Qualcuno mi dice, vediamo fra un paio di mesi. Ok, vabbè, vediamo fra un paio di mesi che cosa. Possiamo stare, allora, sulla base di queste congetture campioniamo tutto, cioè o stiamo sui fatti, che sono morte 12 persone, tutte con sintomatologie precedenti e di cui diciamo, il coronavirus è intervenuto, ma erano tutte persone diciamo, già critiche, e che stiamo facendo 10 volte i tamponi in due regioni. Cioè, voglio dire, l'Italia, la stragrande maggioranza di questi tamponi li ha fatti in Veneto e Lombardia, che da soli doppiano, arrivano a quasi 10 volte gli interi tamponi fatti in Germania e in Francia. Non so, è ovvio che se facessi il tampone dell'epatite A o della mononucleosi magari scopri che il sottoscritto ce l'ha, anche se è asintomatica. Dai, per favore. Oppure siamo noi migliori di tutti, tamponiamo tutti e poi mi raccontate cosa facciamo dopo. Comunque, dai, le altre notizie in breve. Guardate, adesso andiamo avanti con la puntata. A me non interessa fare più figo. Io ho avuto la sensazione, come dicono a Firenze, che ci sia stata anche una gara a fare il più figo del bigoncio. Va bene? Se qualcuno conosce l'espressione. E cioè, benissimo. Poi i cocci, tanto li pagano i soggetti produttivi, li pagano le imprese, i negozianti, gli albergatori, le agenzie di viaggio, gli organizzatori di eventi, chi deve andare all'estero per fare i contratti, no? Voglio dire, lì le telecamere non ci sono, però, eh. Sì, mi scrive un ascoltatore, giustamente, si è preferito lo share al fatturato, ha ragione. E anche il consenso politico, a mio avviso. Comunque andiamo con ordine. Per quello che riguarda le borse, oggi Milano almeno è positiva, più 1,30%, Parigi perde lo 0,1%, Francoforte lo 0,20%, Londra invariata, euro su dollaro 1,08%, i titoli sono tutti in recupero, Saipem più 4,80%, Fiat più 4,80%, Telecom più 3,60%, Recordati più 3,20%, Nexi più 3,20%, Juventus più 2,80%, Prismen più 2,60%, Estima Creatronics più 2,1%, Intesa San Paolo più 2%, Moncler più 2% come B per banca, A2A meno 0,80, Ferrari meno 0,80. Sì, ha ragione, io ho criticato il Presidente del Consiglio e da quello che si capisce lo stratega della sua comunicazione, perché loro sono al governo, poi anche alcuni esponenti di opposizione, penso a Salvini, a Meloni, a Berlusconi, mi sembra meno, che ha attaccato, non sono in grado di gestire la sicurezza di questo paese. Sembrava che adesso dovessero arrivare le cavallette. Se tutti quanti avessero fatto un passo indietro, si poteva anche comunicare con comunicati stampa, far parlare solo i responsabili della protezione civile o dell'Istituto Superiore della Sanità e dire quella che è l'evoluzione, mettere in maggiore evidenza che la progressione sta rallentando, e adesso vedremo cosa succederà. Scommettiamo che come ci mettiamo a fare i tamponi noi, come hanno fatto Francia e Germania, i nostri casi futuri saranno quelli di Francia e Germania? Disposto a perdere la scommessa, per carità. Il problema è stato il focolaio, siamo tutti d'accordo, ma è come comunichi il focolaio. È chiaro che noi abbiamo avuto la sfiga che questo focolaio si è realizzato in un ospedale, quindi ha avuto un impatto enorme, ma diciamo, un conto è dire conteniamo la cosa lì, un conto è iniziare a dire siamo passati improvvisamente nel fine settimana da qui da 19 a 100 a 60, poi a 150, poi a 300. Sembrava un'esplosione e nessuno si chiedeva ma perché in Francia sono 12, in Germania sono 15, in Spagna sono 2. Porca miseria, siamo noi il principale paese che ha rapporti con la Cina, ma dai, su. Sì, mi scrivono anche da Bari, da Roma, che il lavoro è fermo, perché deve fermarsi il lavoro a Bari? Adesso vi spiego perché comunque Moody's, recessione globale, si aumenta la pandemia, taglia 0,4% la stima sul PIL globale, vabbè, però le vendite auto faranno meno 2,5% nel 2020, in Cina hanno fatto meno 20,6%, a Hong Kong si decide di dare un bonus da $1,200 a ogni adulto, visto un PIL che rischia di essere in recessione. Il premier giapponese Shinzo Abe ha chiesto di rinviare di 2 settimane i grandi eventi, anche di andare avanti con l'organizzazione delle Olimpiadi. Il Pechino ha imposto la quarantena per tutti quelli che arrivano dai paesi colpiti, quindi anche dall'Italia. La Russia sconsiglia i viaggi in Italia, la Turchia sconsiglia i viaggi in Italia, che poi avete capisci, cioè qui ecco i viaggi nelle regioni colpite, sì. Figurati. Se poi le regioni non colpite fanno la gara a chiudere scuole, allora tu immagina uno straniero che deve dire: beh, è colpita le Marche, è colpita Napoli, sì, hanno chiuso le scuole, allora sai che c'è? Si hanno chiuso le scuole per non sapere leggere né scrivere, ma io non ci vado proprio nelle Marche e a Napoli. Altro che una comunicazione che doveva mirare a dire: guardate che tutto è contenuto sopra a livello, diciamo, eccezionale in quell'area lì. Va bene. Adesso il premier Giuseppe Conte, l'area che tira, inaccettabile limitazione degli italiani all'estero. Questi casi non sono accettabili, queste situazioni non sono accettabili. Ieri si è svolta una proficua riunione tra il nostro ministro della Salute Speranza e gli omologhi, i ministri della Salute, hanno condiviso e apprezzato le nostre misure. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice piena fiducia all'azione dell'Italia, il Presidente del Parlamento Europeo dice è stato un grave errore decentrare la sanità in questo paese, lasciarla gestita da ogni regione in maniera singola, secondo me questo è anche vero. Poi ho visto che ieri giustamente il governatore Fontana finalmente ha detto attenzione, poco più di un'influenza, lo stesso Zaia ha detto attenzione, specifichiamo che non sono morti per coronavirus, date bene le informazioni. Sì, diciamo... avrei voluto da parte di Conte, di Casalino, anche di Fontana e di Zaia lo stesso tipo di prudenza sabato, domenica, venerdì, no? Il che non vuol dire non fare i tamponi, non fare i controlli, non vuol dire prenderla sotto gamba, su. Comunque l'Unione Europea dice l'Italia ha messo in atto misure risolute e veloci, poi il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza ha effettuato acquisizioni di documenti nelle sedi di Amazon e eBay, vuole capire chi sta speculando sulle mascherine. Lo spread a 149 punti, i consulenti del lavoro calcolano che gli italiani, i dipendenti italiani potenzialmente occupabili in smart working sono 8.300.000, la pubblica amministrazione ha firmato una direttiva, la ministra Fabiana Dadone, per privilegiare modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa. E poi appunto la dichiarazione che personalmente aspettavo da tempo, cioè ci comportiamo anche noi come gli altri. Guardate che c'è chi mi dice, guardi che tanti tamponi ne hanno fatti anche in Gran Bretagna. A me arrivano tantissime segnalazioni di italiani che sono andati negli ospedali britannici con sintomi, febbre, problemi respiratori e sono stati mandati a casa. Sto guardando molti messaggi, stanno arrivando decine di messaggi che stanno arrivando. Adesso non posso rispondere a tutti i messaggi, però adesso vi faccio dopo il meteo, vi faccio capire come si fa a essere tafazzi, come si fa a essere, diciamo, masochisti, anche quando i casi non ne hai o hai casi, diciamo, rarissimi, un caso a regione, e negli altri paesi per un caso a regione non hanno chiuso le scuole, che, ripeto, un'immagine drammatica se uno va sui siti e dice i bambini non vanno a scuola e io devo portare via i figli in quella regione. Perché questo è il problema, del lasciare la gestione ai singoli governatori delle regioni, a mio avviso. Io da sempre sostengo che l'Italia non può essere federale per molte cose, su. Comunque, sentiamo Franco Locatelli, direttore del Consiglio Superiore della Sanità alla Protezione Civile, e ha detto: i tamponi effettuati finora hanno dato nel 95% dei casi esito negativo, cioè abbiamo fatto 10.000 tamponi, di cui 9.500 hanno dato esito negativo. Ripeto, facciamo la stessa cosa in Francia e Germania e vediamo quanti danno esito negativo. E ha detto: il rischio contagio è elevato nei soggetti sintomatici, mentre è marcatamente più basso nei soggetti asintomatici. Vuol dire che molti di quelli che tra l'altro, intanto che non si diffonde così facilmente, e poi molti di quelli che hanno scoperto di averlo erano completamente asintomatici. Da lì il motivo per cui si andano a fare i tamponi solo sui soggetti sintomatici. La larghissima parte di questi tamponi, diciamo più del 95%, ha dato esito negativo. Il rischio di contagiosità è elevato nei soggetti sintomatici o paucisintomatici, mentre è marcatamente più basso nei soggetti asintomatici, e questo quindi, dicevo, supporta la scelta di riservare l'esecuzione dei tamponi solo a quei soggetti che sono sintomatici o con forte sospetto di sintomaticità. Dunque, continuano a scrivermi ascoltatori da Londra: la mia fidanzata era ammalata con la febbre a 39,2, abbiamo chiamato, ci hanno detto di richiamare dopo 2-3 giorni nel caso se sia ancora male. Cosa identica anche in Germania, mi segnalano, la trattano come influenza di stagione, no? Invece qua, come hai un colpo di tosse, ti guardano male, ma c'è da vergognarsi. Lo dico anche ad alcune persone, diciamo, in generale con cui lavoro, perché poi è difficile dire agli altri tranquillizzatevi se i primi a fare panico sono i giornalisti. Allora, ci voleva maggior freddezza da parte di tutti, a partire da chi ci governa, e ci vuole maggior freddezza e non l'assalto agli scaffali. Non è una trasmissione d'opinione, mi scrive un ascoltatore. Ah sì? E decide lei che cos'è? Dare notizia, non far polemica. Se permette, una riflessione sul danno che ci stiamo facendo, non è far polemica, è purtroppo commentare già dei dati certi. Comunque adesso arriveremo anche a quello dopo il metro pubblicità. Vediamo come si muovono in ordine spasso le regioni, i comuni. Non ho detto che la sanità vada centralizzata di nuovo, perché sappiamo benissimo che Emilia Romagna, Veneto, Lombardia sono casi di eccellenza. Ho detto che la gestione delle emergenze lasciata a ogni regione che si muove come cavolo vuole è una follia, e ok, oltre, diciamo, alle immagini del Presidente del Consiglio nel bunker, che è un'altra follia, se non fossi stato abbastanza chiaro. Purtroppo questo è il paese del Grande Fratello, non voglio fare nomi e cognomi, chiaramente la spettacolarizzazione ce l'abbiamo nel sangue. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. D7 17:38 minuti. Guardate, leggo un ascoltatore che dice: perdonate la schiettezza, ma non è possibile che una persona come conduttore della trasmissione, sarei io, in corso in questo momento Focus Economia, faccia della trasmissione un suo punto di vista assolutamente personale, con alla base una mancanza totale di nozioni tecniche, soprattutto stravolgendo spesso anche i dati che sta sciorinando agli ascoltatori. Mi spiace, perché da una radio come la vostra, seria e professionale, non mi aspettavo una trasmissione condotta in questa maniera. Scusate la chiesa. Va bene, è un giudizio, ci mancherebbe. Allora, le opinioni sono opinioni. Il crollo delle prenotazioni del 40% è un dato di fatto che stiamo raccontando da giorni. Il fatto che decine di ascoltatori ci scrivono che non riescono neanche a andare, gli rifiutano gli incontri in Germania, in Francia, in Austria, devono fare incontri di lavoro. Lasciate stare le fiere, ne abbiamo parlato mille volte. È un dato di fatto, no? La burocrazia. Quindi, voglio dire, per carità, uno poi può pensare che sia tutto giusto, che bisogna fare ancora più tamponi. Io ho solo fatto notare la sproporzione tra il numero che abbiamo fatto noi di controlli e quelli di Francia e Germania. Possono sbagliare Francia e Germania? Benissimo. Quello che so è che in questo momento, però, Francia e Germania non hanno nessun problema. Se tu arrivi dalla Francia e dalla Germania, non hai nessun problema. Se arrivi dall'Italia, perché non è solo l'Italia del Nord, è soprattutto l'Italia del Nord, sei un appestato. E comunque le rispondo con Giorgetti, che è il leghista, il braccio destro di Salvini. Non può certo dire che faccio il portavoce di Giorgetti. Ha detto poco fa Giorgetti, e io sono d'accordo al 100% con lui, parlando alla Camera: tra poco ci sarà la reazione veemente dei ceti produttivi e si ribelleranno. La settimana prossima ci sarà chi inizierà a aprire le fabbriche in barba alle ordinanze. Qui non si ha la percezione di quello che sta arrivando. Imprenditori di Piacenza oggi sono arrivati a Napoli e sono stati mandati in ospedale per controlli. Ma vi rendete conto che cosa abbiamo generato? Che se uno arriva da Piacenza, se arriva da Milano, se arriva da Pavia, anche se sta da Dio, lo mandi in ospedale per controlli? È questo il modello per combattere il coronavirus? Va bene, se è questo per voi, blindiamo il paese a fronte, diciamo, di una mortalità che per ora sta colpendo purtroppo gli anziani, ma solo quelli. Ma porca. Ma va bene, uno può anche sostenere che dobbiamo chiudere il paese. Chiudiamo il paese. Allora, appunto, a proposito di un paese in cui ognuno va per i cavoli suoi pensando solo al consenso elettorale, De Magistris: a Napoli le scuole chiuse fino a sabato, non c'è da aver paura, panico. Tu chiudi le scuole ma non c'è da aver paura. È bellissima sta cosa, perché bisogna fare una massiccia attività di igienizzazione e sanificazione. Noi innanzitutto, lo voglio chiarire perché c'è molta confusione su questo, ci atteniamo ai protocolli nazionali, perché è un'emergenza nazionale. Nel momento che Napoli finora e anche altre zone del paese non hanno avuto casi, è molto importante anche mettere in campo delle azioni di ulteriore prevenzione. Quindi da qui a sabato sicuramente contiamo di programmare questa massiccia attività di igienizzazione e sanificazione. Noi faremo di tutto per fare in modo che chi ha responsabilità le metta in campo, perché i cittadini devono essere tutelati. Questo non è il momento delle polemiche, poi ci sarà il momento anche di fare le analisi delle cose che non sono state fatte o sono state fatte male, ma noi guardiamo, diciamo, in avanti. Quindi oggi depositeremo alcuni provvedimenti con cui si evidenzierà che fino a sabato le scuole sicuramente rimangono chiuse per questa effettuazione di misure straordinarie di pulizie. Quindi non c'è da avere né paura né panico, anzi è un modo per alzare ancora di più la sicurezza e la serenità nel nostro territorio. Allora, io lo dico con massimo rispetto per De Magistris e i napoletani, però non so quanti di voi ascoltino la classifica del sabato, del venerdì, buonanotte. Ma con quello che abbiamo raccontato anche su Napoli, adesso l'igienizzazione delle scuole va bene, le azioni straordinarie di pulizia vanno sempre bene, ci mancherebbe, ma ci vogliamo prendere in giro? Perché questi ragazzi nel frattempo dove li mettiamo? A casa, giusto? Non vanno in giro, tornano lunedì, la scuola è igienizzata, a posto. È così, così che funziona. È un po', ripeto, come le palestre, le spa negli alberghi. Devi chiudere la palestra, la spa, lasci aperto il resto dell'albergo. Ma è come il discorso dei bar. Io non riesco a capirlo, scusatemi. A Milano e nell'area hanno chiudono i bar alle 18, adesso c'è una nuova ordinanza. Benissimo. Ma io mi sono chiesto, me l'hanno fatto molti questa domanda, ma scusami, e dalle 7 di mattina alle 18 te puoi ammalare come cavolo vuoi? O non entra nessuno nel bar? Cioè, il coronavirus va lì solo per l'aperitivo. È lo spritz coronavirus, coronavirus spritz. Cioè, lui va lì e opera solo durante lo spritz time. Tra, no, una cosa e un'altra. Prima delle 18 non si attiva, è da qualche altra parte. E comunque De Magistris dice: non c'è nessun motivo di fare panico, però i ragazzi a scuola e i ragazzi a casa, perché dobbiamo igienizzare. Scuole chiuse a Palermo, il sindaco Orlando, perché tutti cosa stanno facendo? La gara a pararsi il di dietro, dai. Presidente della regione Musumeci, d'accordo con il sindaco Orlando e l'assessore regionale dell'istruzione, dopo il caso dei 3 turisti di Bergamo positivi al virus, tutte le scuole sono chiuse a Palermo. È tutto normale, secondo alcuni ascoltatori. Il Parlamento siciliano, già col tasso di produttività che ha, che raccontiamo da sempre, il Parlamento siciliano chiude per 4 giorni perché deve igienizzare. 4 giorni, ma cosa fanno? Scrostano le pareti, no? Divelgono le travi, perché 4 giorni per igienizzare il parlamentino siciliano. E vabbè, intanto il weekend s'allunga, e dai. E poi il governo che impugna la chiusura della scuola delle Marche, ma il grande presidente della regione Marche, Luca Ceriscioli, che dice no, sarà l'occasione per vedere chi ha fatto bene o no, chi si oppone. Se sento Ceriscioli nei prossimi mesi e settimane dire che c'è un problema di afflusso turistico nelle Marche, che erano del tutto e sono del tutto, diciamo, fuori dal problema di Codogno e della zona del Basso Lodigiano, poi lo mettiamo in classifica. Conte ha detto le Marche creano confusione e agitazione, sì, dico, problemi. E oggi il ministro dell'istruzione Lucia Azzolina, ai nostri microfoni ospite di Maria Ratella e Simone Spezia, ha detto non c'è nessun rischio che venga perso l'anno scolastico. Ha criticato chiaramente la Regione Marche e ha anche aggiunto che i docenti a casa non perdono lo stipendio. Infine, facciamo ascoltare questi 3 passaggi, che per lo stop alle gite i genitori verranno rimborsati, ma anche le agenzie avranno bisogno di una risposta. Sentiamo Nazzolina. Non c'è assolutamente alcun rischio che i nostri studenti perdano l'anno. Uno, perché abbiamo una normativa salda, nel senso che al ricorrere di situazioni imprevedibili è fatta salva la validità dell'anno scolastico. In ogni caso, questo sappiamo che il testo unico, l'articolo 74,3, ci parla dei 200 giorni, ma se ci sono situazioni imprevedibili l'anno è salvo. Le scuole, nella loro autonomia scolastica, potrebbero anche decidere di allungare l'anno scolastico, ma non sarà necessario, anche perché noi stiamo lavorando con una task force da giorni al Ministero dell'Istruzione per garantire ai nostri studenti la didattica a distanza. Se le misure che noi abbiamo posto in essere avranno, come speriamo, degli effetti celeri, immediati, io penso che se in questo momento abbiamo una chiusura regionale delle scuole, dalla prossima settimana si potrà iniziare a pensare eventualmente di avere una chiusura provinciale, cioè più legata a delle zone dove ci sono dei focolai, parlo per esempio dell'Lodigiano. Ma in questo caso non stiamo parlando di malattia, questa è un'altra fake news che ho sentito in questi giorni. L'altro giorno in protesta qui al Ministero dell'Istruzione, quando abbiamo fatto la task force, c'era la Protezione Civile che diceva giustamente che in questo momento forse l'epidemia più grande che abbiamo è quella delle fake news. Gli insegnanti non sono a casa per malattia, quindi non avranno una trattenuta. Non, qui non c'entra nulla la legge Brunetta, qui sono a casa per cause di forza maggiore che non dipendono ovviamente da loro. I genitori verranno rimborsati. Noi nel decreto legge abbiamo citato l'articolo 41 del codice del turismo, ma ovviamente anche le agenzie hanno bisogno di una risposta, e lì noi faremo un decreto ad hoc, ne abbiamo parlato ieri in Consiglio dei Ministri con il ministro Gualtieri. Però ci tengo anche a dire un'altra cosa: non è che i viaggi di istruzione potranno essere di nuovo operativi a partire da maggio. No, noi al momento abbiamo sospeso i viaggi di istruzione fino al 15 di marzo. Mi auguro, dipende, ribadiamo sempre, da quello che ci diranno le autorità sanitarie e da come evolverà la situazione che a partire dal 16 di marzo si possa anche ricominciare ad andare in viaggio di istruzione. Questo però, ribadiamo, dipende dalla situazione epidemiologica che avremo nelle prossime settimane. Ora, no, devo anche sorridere ogni tanto, perché giustamente, a parte il fatto che la gestione da parte dei vertici, cioè governo, presidente del consiglio, anche governatori delle regioni, poi delle regioni anche i sindaci e quant'altro, sta dando un'immagine. Sapete che hanno messo in quarantena i deputati di ritorno dall'Italia? Cioè, vuol dire, il Parlamento europeo? Ma guardate, la battuta più bella rispetto a De Magistris, che deve igienizzare le scuole, di igienizzare le scuole, il Parlamento siciliano che chiude 4 giorni perché deve igienizzare le scuole, le scuole chiuse a Palermo non si capisce bene per cosa, per i 3 turisti di Bergamo positivi al coronavirus, me l'ha fatta un ascoltatore, ma cosa vuol dire igienizzare? Mica sono blatte queste, è un virus, cioè cosa vuol dire igienizzare? Sapete che non ho proprio capito, cioè se tu igienizzi il parlamentino siciliano, igienizzi le scuole di Napoli, che comunque alcuni dicono era anche ora, visto il degrado di alcune scuole di Napoli, e tornano lunedì i ragazzi, devi igienizzarli tutti, perché questi magari sono stati in giro, dove da qualche parte sono andati. Che cosa vuol dire igienizzare? Dai, andiamo sul traffico. Focus Economia. Oh, poco fa il sindaco di Milano Sala ha sentito, ha annunciato di aver parlato al telefono con il Premier Conte, con il Ministro dell'Economia Gualtieri, con il Ministro della Cultura Franceschini. Ripartiamo dalla cultura, iniziamo a riaprire qualcosa, possiamo cominciare dai musei o da altro. Va bene, si fa per dire. Allora, Gianluca Garbi, amministratore delegato di Banca Sistema, buonasera. Buonasera. Senta, voi che valutazione state facendo nei prestiti, nei crediti, anche nell'operazione? Abbiamo avuto in questi giorni soprattutto esponenti delle categorie produttive più coinvolte, agenti di viaggio, operatori turistici, operatori alberghieri e quant'altro, i primi che hanno beccato la mazzata. Dal vostro punto di vista, come vi state preparando non tanto al coronavirus, ma a gestire la debolezza economica? Spero che non vada oltre una debolezza economica che arriverà alle attività produttive non solo nelle regioni interessate, ma la Lombardia fa il 20% del PIL italiano. C'è qualcosa che state approntando? Ma allora, innanzitutto, in quanto ci sono queste situazioni patologiche, bisogna poi capire quando si stabilizzano, perché oggi siamo in una situazione di panico, voglio dire, con scelte anche irrazionali, la chiusura delle scuole, i bar che chiudono, e quindi come se il virus fosse un vampiro, i test fatti a tutti. No, chiudono solo dalle 18 in poi, perché prima delle 18 il virus non colpisce. Assolutamente, perché sono come dei vampiri, no? Quindi il virus vampiro. Dopodiché ci sarà una fase di stabilizzazione, di razionalità, e a quel punto si potranno tirare le fila, giusto per dare anche qualche numero, sono 1,4 milioni le persone che muoiono per incidenti stradali, 770.000 persone che muoiono ogni anno per l'AIDS, e quindi alla fine, quando uno guarda meno di 3.000 persone per il coronavirus, stiamo parlando di una cifra veramente piccola nel contesto. Nell'immediato ci sarà una situazione chiaramente negativa per tutti quei settori, turismo, trasporto, quelli che sono particolarmente esposti verso l'export. Dall'altro lato ci saranno effetti anche positivi, perché tutti coloro che fanno servizi online, piuttosto che vendono computer portatili, telecomunicazioni, infrastrutture di rete, chi lavora con la pubblica amministrazione o il sistema sanitario che dovrà spendere per far fronte a questo, un miglioramento anche nell'inquinamento, visto che la Cina ha ridotto di un quarto le emissioni, quindi ci saranno anche effetti positivi. Per capire effettivamente quale sarà il risultato bisognerà aspettare ancora un periodo di tempo. Io penso che ci sarà una riduzione, un problema nel primo trimestre, ma poi già a partire dal secondo trimestre la situazione molto probabilmente verrà giustamente ridimensionata. Se guardiamo già oggi come si stanno comportando i mercati, i mercati che solitamente tendono ad anticipare, certo, un po' anche le cose, c'è stata un'inversione di tendenza, perché si prendono i numeri, si guardano i numeri, si passa sopra a quella che è l'irrazionalità emotiva, questa gestione politica a 360 gradi magari non consona a queste situazioni, e si guarda avanti. Quindi oggi è difficile andare ad individuare un problema strutturale. Ma voi avete immaginato linee di credito diverse, più agevolate, cioè le aziende che vi chiederanno anche il contante, il credito circolante, cioè non solo per investimenti, ma insomma, se inizi ad avere i ricavi fermi, forse hai un problema anche nel contante, no? Ma questo sì, ma questo a prescindere dal problema del coronavirus, cioè ci sono aziende che, voglio dire, il settore dei trasporti non è che andava bene prima e oggi il coronavirus ha creato una situazione patologica, quindi è evidente che quando si guardano i vari settori merceologici, le banche fanno soldi se li prestano alle aziende che poi li restituiscono, questo è il concetto di base. In questa situazione ci saranno aziende che avranno un problema di circolante, quindi molto probabilmente verrà fatta una moratoria per quanto riguarda i mutui, i finanziamenti. Ribadisco, poi ci sono aziende che in questo momento, senza fare speculazione, però avranno anche degli impatti assolutamente positivi. Sì, però la maggior parte in questo momento sono preoccupatissime, lei lo sa, cioè qui non riescono neanche a fare gli incontri commerciali, non li vogliono in Germania, non li vogliono in Francia, io ho decine di casi di persone normali, non di top manager, di gente che lavora nella parte commerciale di un'impresa, che dicevo 3-4 appuntamenti, me li stanno annullando tutti. Io vengo da una zona che praticamente, però sai, stando nel nord Italia, non... cioè, ma infatti nel breve sarà così, nell'immediato sarà così, dopodiché quello che potrebbe anche tranquillamente succedere è che tutte quelle aziende che magari fino ad oggi importavano gran parte della propria produzione da poi distribuire nell'Occidente, le importavano dalla Cina, magari penseranno di iniziare a fare nuova produzione in Italia, quindi avrà un impatto positivo. Evidente, il sistema bancario non farà nient'altro che seguire questa evoluzione e accompagnare le imprese in questa direzione. Quindi secondo me bisogna distinguere il breve dal medio termine. Sì, però il tempo, sono d'accordo con lei Gabi, ma il tempo è la variabile fondamentale in questo momento, cioè se poi tutto si potrà tradurre in una grossa frenata, ma poi anche in una ripartenza, un rimbalzo, allora riusciremo a contenere i danni nella maggior parte dei settori. Temo nel turismo no, perché il turismo si muove su altre logiche, soprattutto il turismo non d'affari, ma il turismo diciamo di... Io non vorrei fare dei brutti parallelismi, però i dati storici ci dicono che ogni volta che c'è stata una guerra, il periodo del dopoguerra è stato un periodo di crescita molto più spinta. Ora, il coronavirus non è una guerra, però gli effetti sono per alcuni versi molto simili, si bloccano i trasporti, la gente non circola, non c'è... Dopodiché, finito questo periodo, la situazione... Sì, è vero, però non è che io posso, impresumente, finito il periodo Garbi, posso andare a mangiare tre sere al ristorante. No, cioè, questo... parliamoci chiaro, cioè esiste anche un... Non posso fare 8 weekend di fila in giro per l'Italia. No, ho capito benissimo però quello che... Distinguiamo i settori specifici che avranno un impatto, turismo in primis, trasporti, dall'economia generale, che poi è quello che è evidente che quello è quello che poi spinge il paese e consente di fare sussidi alla parte dell'economia che invece va peggio. Ho capito il suo ragionamento, devo ringraziarla perché devo andare sul GR24. Sui provvedimenti, una signora mi scrive... Pensavo lei fosse una persona intelligente che ascoltasse la scienza, la sua superficialità mi stupisce, io un'attività sono chiusa e non mi lamento. Prima la salute, benissimo. E chi dice dopo, prima l'economia? Il problema è capire se prima la salute o no. Le faccio un esempio, mi scrive un altro ascoltatore, dice ieri a Zoldo, cioè nel Cadore, cabinovia che porta le piste da sci zeppa di ragazzi e a Belluno le scuole sono chiuse. Ci sono delle cose che non capisco. Non capisco perché i bar, il coronavirus, ho capito che c'era l'aperitivo, ma i bar a Milano vivono anche dalle 7 di mattina alle 18, allora chiudi tutto. E i ristoranti? Se un ristorante è molto affollato, perché deve essere più rischioso di un bar con poca gente? Chiudiamo anche i ristoranti. Vedi che poi alla fine non si finisce più? Abbiamo i ragazzi che non vanno a scuola, ma appunto vanno nelle cabinovie. Abbiamo gli alberghi che chiudono la spa e la palestra, ma lasciano aperto giustamente il ristorante e la reception. Cosa vogliamo fare? Andiamo su GR24. Le due squadre sono in campo. I motori a benzina vanno all'attacco con prestazioni straordinarie, ma i motori elettrici sono in contropiede con emissioni zero. Ma vai alla Moviola! Con Grandland X passi da benzina elettrico quando vuoi. Opel Grandland X ibrido plug-in, anche diesel e benzina da 19.900 euro. Info su opel.it. Dottor Barter, cosa consiglia oggi alle aziende che ci ascoltano? Svuotare subito il magazzino dai prodotti in eccedenza, destinandoli al cambio merce pubblicitario. Allora, dottor Barter, ci dia la soluzione. Chiamate Gruppo Next. Realizzate campagne pubblicitarie in Italia e all'estero per acquisire nuovi clienti. Gruppo Next aumenta il business promuovendo il vostro marchio con tutti i media. Chiamate Gruppo Next e consultate il sito grupponext.net. Sì, siamo qui in diretta dalla manifestazione contro il caro auto, ma un attimo! Eccolo, è lui! State sereni, ci penso io! È Segugio, il supereroe del risparmio! Per risparmiare sulla polizza auto, andate su segugio.it e confrontate le migliori assicurazioni online! Segugio.it, il supereroe del risparmio! Anche la benzina costa troppo! E allora, prova a vincere un buono carburante da 1000 euro al giorno! Sempre su segugio.it! Siamo nel 1967, quando grazie ad Ampelio Costantin prendeva forma quella che oggi è diventata una solida realtà, la Costantin S.P.A. Il mondo da allora è cambiato e noi con lui, ma i nostri principi no, sono rimasti gli stessi. Cortesia, qualità dei servizi e un unico obiettivo, la soddisfazione di voi clienti. E solo grazie a voi, che tutti i giorni ci scegliete, questa è diventata una storia di successo. E lasciamo pure che gli altri ci chiamino pazzi. Stazioni di servizio Costantin. Fermarti ti conviene. San Marco Informatica è il partner per l'innovazione. Scopri un nuovo modo di fare impresa con la Digital Transformation. Contatta un nostro consulente per conoscere i servizi Trust and Fast. sanmarcoinformatica.com. Sono Gianluca Nicoletti e nel mio nuovo podcast In Viaggio con Tommy vi racconterò settimana dopo settimana il viaggio che sto facendo con il mio figlio autistico alla scoperta dello straordinario perduto, perché alla fine solo nell'arte c'è posto per i cervelli ribelli. Potete ascoltare ogni tappa della nostra avventura dal sito di Radio 24. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Per carità, vedo con tanti, è facile dirlo adesso, all'inizio sembrava che ci fosse un'epidemia, vabbè, c'è poi chi mi insulta, ma questo, diciamo, questo non è nuovo, ecco, questo non è patologico, è fisiologico, meglio un eccesso di tutela che il contrario. Sì, per carità, basta che poi però non diamo il messaggio che c'è un paese in quarantena, cosa che è esattamente uscita. E poi guardate, io continuo a non capire, poi adesso andiamo avanti, ma giustamente mi dice un altro ascoltatore, dov'è che sono in una delle valli dolomitiche del Vento, cabinovie, funivie strapiene, caroselli sciistici del Vento al Trentino, masse di sciatori e le scuole chiuse. Ma infatti ha ragione qualcuno quando che mi scrive, bisognava magari iniziare a fare un'operazione ancora più mirata sugli anziani. Comunque adesso non voglio andare avanti. Vediamo con ecco, 5 università americane hanno sospeso i programmi in Italia, tutti con programmi a Firenze. Vedete, questo è bellissimo perché Firenze ovviamente è vicina a Milano, è vicina alla Lombardia. Allora, per non sapere leggere e scrivere, sospendi i programmi universitari a Firenze, sospenderai il turismo a Firenze e via così. Ma certo, però dovete dimostrarmi che Firenze ha un numero di casi talmente diverso da quello del resto d'Europa da bloccare tutto. Non ce la fai più sentire, malamore, sì, adesso ve la faccio sentire. Non ho dato addosso alla sanità e alle regioni che sono eccellenza. Ho detto 3 volte che la sanità di Emilia Romagna, Veneto, Lombardia è un'eccellenza. Ho detto che forse è mancato un po' di coordinamento e forse a livello nazionale, anche nella gestione delle scuole, guardate le Marche, bisognava dare un coordinamento nazionale, ma ho criticato anche, diciamo, l'incapacità a livello governativo di dare una sensazione di maggiore stiamo monitorando la situazione, bene, facciamo i controlli nelle aree, bene, ma non chiudiamo il paese. Ma guardate che poi se ne sta accorgendo la stessa politica adesso, perché dai governatori Zaia e Fontana al Presidente del Consiglio, tutti iniziano adesso a dire, beh, un attimo, cerchiamo di gestire la situazione in maniera un pochino più normale. L'ho letto l'appello di Sala, che ha detto cerchiamo di riaprire almeno i musei a Milano. Va bene, è colpa mia perché sono pagato dalla Confindustria, sono pagato da Sole 24 Ore, ma comunque andiamo avanti. Allora, Nardo Filippetti, presidente di Astoi e quindi appunto mondo del turismo, e al microfono la nostra Teresa Trillò. Beh, le stime in termini di numeri sono difficilmente quantificabili perché è un work in progress continuo, ci sono annullazioni a raffica per oltre il 60% delle prenotazioni che avevamo in carico, e che è una situazione veramente pesante. Non stiamo ad analizzare del come è successo perché non mi compete, la preoccupazione più grossa è come si può fare per ripartire, cercando di dare dei suggerimenti a coloro che ci governano per far sì che il settore possa riprendere con non troppe difficoltà, che comunque sarà un danno incalcolabile. Cosa suggerite di fare? Diciamo che innanzitutto la prima cosa che viene a mancare è la cassa, quindi chiediamo supporto da parte del mondo bancario di sopportare le imprese che ne abbiano bisogno con la cassa, perché si sa che le aziende quando si bloccano i flussi di cassa falliscono soprattutto per mancanza di cassa. E chiediamo assolutamente una moratoria sui mutui in maniera totale piuttosto che non parziale, non solo come è stato durante il periodo dei subprime, ma in maniera molto più forte, e che per un anno si diano respiro alle aziende di poter sopportare questo momento. E poi nel breve assolutamente cassa integrazione, la sospensione delle utenze, i mutasi e tari, ma questo qui c'è un elenco che non finisce più, che abbiamo presentato sia al MIBACT che al Ministero degli Interni, al Ministero delle Finanze, come associazione di categoria di Federturismo Confindustria, per cercare di poter aiutare le imprese soprattutto a far sì che questo momento così deleterio passi e far sopravvivere. Ecco la malamore, che è proprio la base, diciamo, del la trasfigurazione sonora di quello che è il paese in questo momento. Dunque, vedo moltissimi messaggi, va bene. Ho fatto anche autocritica, non al sottoscritto, ma anche alla stampa, che ha cavalcato la cosa come se fosse così un altro show mediatico. Però andiamo sul Salone del Mobile. Allora, che non è stato cancellato, è stato spostato. Spostato a giugno, se ben ricordo, così come il Mido è stato spostato al Salone dell'Occhieria, è stato spostato a luglio. La decisione l'ha spiegata il presidente della manifestazione Claudio Luti al microfono della collega del Sole 24 Ore Giovanna Mancini. Quello che è successo negli ultimi giorni, siamo stati costretti a sospendere la manifestazione di aprile che avevamo preparato, e quindi la scelta non era, c'era possibilità soltanto del mese di giugno, perché a settembre, ottobre è già tardi, è troppo vicino alla prossima edizione di aprile, quindi giugno rimaneva l'unica possibilità. Ci siamo messi d'accordo con la fiera per avere una possibilità, uno slot, perché noi occupiamo molto tempo fra la costruzione del padiglione e la fine, e credo che la data sia ancora accettabile. Ci saranno anche degli incroci con la moda a Milano, ma penso che ci metteremo tutti insieme e cercheremo di farci del bene e non del male. Però è l'opzione che abbiamo preso, perché è meglio mettere tutti gli sforzi per cercare di rimandarla di due mesi e sperare in una situazione che ritorni alla normalità, quindi con un Milano normale, e un suono del mobile col normale successo, che riposizionarlo tutto per l'anno prossimo. Credo che per le aziende, per l'Italia, per Milano sia la scelta coraggiosa e migliore. Abbiamo bisogno di aiuto, le imprese hanno bisogno di aiuto e speriamo che riusciamo a dare tutto il meglio. Dunque, mi dice un ascoltatore, è una bella gara tra presidenti di regione e governo centrale. Sono d'accordo su chi ha non le precauzioni, ma chi ha amplificato le precauzioni. Sentiamo però adesso il punto stampa della Protezione Civile. Ascoltiamo in diretta. Rispetto a oggi, un totale di 400 persone contagiate sulla base dei dati forniti dalle regioni. Quindi un incremento rispetto a oggi di 26 persone. Il dato rimane Lombardia 258 complessivi, 71 Veneto, 47 Emilia-Romagna, 11 Liguria e poi rimangono 3 rispettivamente Piemonte-Lazio e Sicilia, Toscana 2, 1 Bolzano. Quindi questo è il bilancio e permettetemi di dire che sulla base anche di quelli che sono i risultati dei tamponi che sono stati fatti, come potete vedere anche dal dato statistico, meno del 4% dei tamponi ha dato esito positivo. Oltre sui dati che noi disponiamo, oltre la metà dei positivi non hanno bisogno di cure ospedaliere e così come conferma l'Organizzazione Mondiale della Sanità, gli affetti dal coronavirus hanno in 4 casi su 5 dei sintomi lievi. Oggi, come sapete, c'è stato anche la commissaria della Salute, ha avuto un incontro con il ministro Speranza e qui voglio ricordare che la commissaria ha avuto parole di apprezzamento per l'attività che è stata condotta dal nostro paese per confinare il contagio, definendo le misure adottate in Italia veloci e risolute. Come voi sapete, noi stiamo operando ormai dal 31 di gennaio con il nostro Comitato Operativo della Protezione Civile e stiamo seguendo insieme con i colleghi delle regioni, componente sanità e componente protezione civile, la gestione dell'emergenza. Non abbiamo avuto particolari difficoltà, non ci sono particolari criticità anche nelle aree della cosiddetta zona rossa. Voglio anche ricordare che già da più di 20 giorni noi abbiamo il dato dei nostri volontari che controllano nei porti e negli aeroporti i viaggiatori. Siamo a oltre 2.800.000 persone. Io sono convinto che domani arriveremo sopra di poco dei 3 milioni. Nei porti quasi 100.000 persone sono state controllate, quindi questo è il dispositivo messo in campo dal sistema di protezione civile. Un'ultima notizia, ho un paio di notazioni riguardo anche alla comunicazione. Innanzitutto bisogna fare attenzione a quelle che sono le fake news, quindi bisogna fare riferimento ai canali ufficiali. E canali ufficiali sono quelli anche come questo, quindi voglio ringraziare tutti quanti gli operatori della informazione che sono qui con noi ormai da diversi giorni, voi tutti, per questo lavoro che ci permette di dare una informazione quotidiana, continua e costante ai nostri connazionali. Io mi fermerei qui, lascerei spazio alle vostre domande. Solo un paio di domande. Allora, così Borrelli della Protezione Civile, il dato positivo è che i 400 casi segnalano un rallentamento netto, lo aggiungo io, basta prendere la progressione da venerdì della progressione dei casi, 258 in Lombardia, 71 in Emilia-Romagna, 71 in Veneto, 47 in Emilia-Romagna, 11 in Liguria, 3 ognuno in Piemonte, Lazio, Sicilia, due in Toscana e un altro che non mi ricordo più dove adesso, ma nessuno in Campania, nessuno nelle Marche. Faccio notare che le scuole sono chiuse a Napoli appunto per la disinfestazione delle blatte e anche nelle Marche il presidente della regione Marche ha detto io vado avanti, bravo, bravo, così anche le Marche poi finiranno. Faccio notare che nel frattempo due casi in Toscana però creano il problema anche a Firenze, perché allora non si capisce perché non vengano cancellate le gite o le visite nelle regioni della Germania, della Francia, dove ci sono due casi, ma perché ormai il problema è Italia. Mi ha scritto un'ascoltatrice che era a Nizza ieri, come hanno sentito, seduto su una panchina, che parlava italiano, si sono alzati tutti. Forse non ci rendiamo conto di come, della percezione che abbiamo fornito all'estero. Comunque, no, spero di sì. Invece sul il salone, vorrei chiudere con questo, invece il presidente di Federlegno Emanuele Rossini, sempre al microfono della nostra Giovanna Mancini, che ha detto attenzione, l'abbiamo spostato appunto perché vorremmo che ci fossero il massimo degli operatori. La cifra del giro d'affari è 1.300 milioni, il salone ci sarà, abbiamo bisogno delle istituzioni ICE, Ministero dello Sviluppo Economico, Comune di Milano, Regione, per fare sistema e sostenere i nostri imprenditori, anche perché per allestire 220.000 metri quadrati dei saloni spenderemo 300 milioni. Sentendo un po' di aziende che sono nostre associate, che sono, perché noi il nostro dovere è ascoltare un po' tutti, abbiamo sicuramente sollecitato le imprese a far parte del salone del 16 al 21 di giugno, però la cosa che è uscita è che non possiamo essere da soli. In questo momento abbiamo bisogno veramente che le istituzioni siano al nostro fianco, che il sistema paese funzioni veramente, che l'ICE metta tutta se stessa per far venire i buyer dall'estero, che ci sostenga il più possibile, e che il governo in ogni modo oggi, nel fatto che noi abbiamo dato un atto di grande responsabilità nell'essere presenti nel panorama delle fiere a giugno, bisogna che altrettanto facciamo, e che abbiamo bisogno di dare fiducia e positività, perché il tema vero è che il Salone del Mobile c'è e sarà forte solo se in ogni modo saremo tutti insieme e ogni istituzione farà la propria parte. E comunque io vi auguro che a questo punto, quando tutto si potrà definire sotto controllo, e mi attengo alle autorità, ci mancherebbe, partirà una campagna enorme dal punto di vista politico, delle regioni, così, per spiegare all'estero che la situazione è sotto controllo. Certo, non per spiegare perché abbiamo creato l'italiano, ormai gli italiani, anche la Cina non ti chiede di controllare, guardate che stanno diventando gli italiani, non i cinesi, gli appestati d'Europa, senza un cavolo di motivo. Traffico. Focus Economia. Dunque io inviterei a chi mi critica, che non posso farlo, a leggere le decine di messaggi che ricevo dalla Francia, o meglio da persone che lavorano in Francia, adesso dalla Croazia, un imprenditore mi ha detto i miei dipendenti mi hanno chiesto di non presentarmi, persone che hanno gli incontri in Germania, anche se vieni da altre regioni, anche se vieni da città in cui non c'è stato un singolo caso, come non c'è un singolo caso in alcune città in Germania e Francia, il problema è che sei italiano, questo siamo riusciti a creare, le tende. Sembrava che dovesse arrivare la peste. Non è che è facile dirlo dopo, dico semplicemente che bisogna andare con un po' più di prudenza. Antonio Poglio Salimbeni, in collegamento con noi da Bruxelles, buonasera. Buonasera a voi. Allora, l'Europa, oggi dovremmo parlare di budget, ho visto chi era il commissario europeo, non Dombrovskis, dire, Gentiloni. Gentiloni, ma dire... Attenzione, forse i fondi di transizione vadano a Taranto e al Sulcis, l'ha detto oggi la Commissione europea, e ha chiarito anche Gentiloni quali siti possono rientrare nel fondo per la transizione verso un'economia più green. Ascoltiamo Gentiloni in questo passaggio. Naturalmente quelli della Commissione non sono degli ucase, la Commissione ha lavorato insieme alle autorità nazionali per identificare nei 27 paesi quali sono le regioni o gli impianti industriali e le aree circostanti che meglio si adattano agli scopi di questo fondo per la transizione ecologica. Nel caso italiano, una miniera di carbone in Sardegna e l'Ilva di Taranto. In questi casi è richiesto alle autorità locali di presentare dei piani di transizione climatica, di transizione ambientale, in base ai quali si ottiene il finanziamento europeo. Naturalmente la Commissione europea è disponibile a aiutare le autorità locali nella redazione di questi piani, ad assisterle, perché il nostro obiettivo è quello che questi quattrini vengano pienamente utilizzati e lo faremo nel dialogo con le autorità nazionali e in questo caso italiane. Dunque, se giustamente mi scrive anche un ascoltatore di Mantova, dice: io sono di Mantova, non c'è un caso, però sono in Lombardia, e auguri adesso. Da questo punto di vista, senti Antonio, al di là della transizione verso il green, si sta ragionando a Bruxelles di come l'Italia potrebbe essere aiutata, diciamo, di fronte a un probabile botta economica per via anche soprattutto della percezione che abbiamo dato del coronavirus? Una cosa la devo dire, ho criticato il governo e anche i rappresentanti locali, regioni e comuni. Certo che anche gli italiani ci hanno messo del loro, perché le immagini dei supermercati vuoti domenica, di gente che usciva con l'acqua, manco avessero bombardato l'acquedotto o il latte, hanno contribuito. Cioè, in questo paese ha anche delle volte i governanti che si merita. Comunque Antonio, si sta ragionando di questo o è troppo presto? Ma intanto è troppo presto sicuramente per dire quanto avrà bisogno l'Italia o di quanto avranno bisogno anche altri paesi se si trovassero nelle stesse condizioni, cosa che si teme naturalmente, e misurare l'impatto economico e quindi successivo aiuto o intervento. L'Unione Europea ha dei fondi per fronteggiare le situazioni eccezionali, così come dal punto di vista dell'impatto sul bilancio pubblico, sul deficit, dello sforzo finanziario cui l'Italia sarà inevitabilmente chiamata, ci sono tutte le flessibilità del caso. Il coronavirus è equiparabile a un terremoto, a un cataclisma naturale, per cui si tratta di un evento al di fuori del controllo dei governi, e di conseguenza le spese relative non contano ai fini del patto di stabilità per dire quanto deficit è ammesso o non è ammesso. Quindi su questo c'è stata un'apertura da parte di Valdis Dombrovskis, il vicepresidente della Commissione, e dello stesso Paolo Gentiloni, responsabile dell'economia. Su questo, senti, togliami la curiosità, Antonio, non c'entra niente, ma tu che sei italiano devi spiegare a Bruxelles che tu non sei mai stato in Lombardo-Veneto negli ultimi settimane? No, perché non sono ancora, perché non sono viaggiato, ma non sono tornato da quelle quattro regioni. Ma in ogni caso è una misura abbastanza. No, ma nessuno te l'ha chiesto, dico, no? Ma nessuno l'ha chiesto perché l'unico modo per chiederlo è che lo chiedano ai viaggiatori che arrivano a Bruxelles in aereo. Come elemento di panico, no. Per solo vedere bene. No, qui non c'è panico. Né in realtà c'è una ondata anti-italiana. Bene. Tutto ciò che tranquillizza. Allora, grazie anche a Antonio Poglio Salimbeni. Giustamente mi fanno notare che le scuole sono chiuse anche in Friuli, dove non c'è un caso, che in Piemonte le scuole sono chiuse, i casi si sono continuano a ridimensionare. Adesso, quando era la statistica che aveva dato Piemonte, sono 3 i casi, perché da 6 altri sono stati chiariti che hanno diciamo dei falsi positivi. Sono 3 casi, va benissimo così. Io vorrei capire se negli altri paesi chiudono tutto per 3 casi. E poi c'è invece il tema di Codogno e dell'isolamento. Comunque non ho più voglia di parlarne. L'indicazione che abbiamo dato anche nei nostri GR è di chiarire sempre quando il decesso è avvenuto, sì in presenza di coronavirus, ma non per causa del coronavirus, visto che c'erano delle patologie pregresse. Stiamo tentando di fare informazione. Molti mi scrivono: guardi che da altre parti non si fa altro che cavalcare la cosa. E vabbè, cosa ci posso fare? Siamo in una democrazia, ci sentiamo domani.